Essendo una scelta mia, quel duetto che abbiamo fatto, devo fare l'annuncio che è di L'occasione fa il ladro, come l'aria che ho fatto inizialmente nella seconda parte. Adesso facciamo il secondo duetto e adesso stiamo innamorati e stiamo bene. Tutta l'opera va avanti, ma la storia nostra è finita.